qua. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Buona domenica, sì, siamo qui dal Groovemaster Studio pronti per il suono di questa sera, anzi il sound check di questa sera qui su Radio 24. Buonasera da Giorgio Telesforo, Silvia Barba e Francesco Tromba. Vi giro i complimenti che abbiamo ricevuto, miei cari amici, dopo la puntata di ieri dedicata al gospel, e ringraziano tutti Silvia per aver finalmente spiegato che differenza c'è fra la Chiesa Battista e quella evangelica, e soprattutto ci ringraziano per la grande musica che abbiamo proposto ieri. Allora, miei cari amici, direi di ricordare in che modo gli appassionati di musica di Radio 24 si possono mettere in contatto con noi. Sì, possono mettere un bel mi piace sulla pagina Facebook Soundcheck Radio 24, oppure seguirci su Twitter, che è una cosa più immediata, perché dove mettiamo il nostro airplay, dove ci retweetano anche gli artisti internazionali, che è Soundcheck R24. Poi potete scrivere direttamente al Super Tromba per avere tutte le informazioni sulla sua disponibilità. Beh, rispondo nel giro di un giorno massimo. Ecco, invece io non rispondo da mesi all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Non ce la faccio, troppe cose da fare, Francesco, quindi credo che ti darò le credenziali e quindi password e username per poter accedere direttamente e fare tutto quello che puoi fare con la email ufficiale del nostro soundcheck. Ma mi paghi qualcosa in più per questa cosa? No, assolutamente nulla, non ti do niente, anzi sei tu che mi devi ancora portare la parmigiana di melanzane di tua nonna. Ah, quello è vero, c'hai ragione. La aspettiamo da 3 anni, sta parmigiana ancora non l'abbiamo vista. Bene, andiamo al sodo, andiamo alla musica. Se ieri abbiamo parlato di gospel, oggi vorremmo affacciarci sul versante elettronico. Quest'estate, l'estate scorsa, ho fatto una bellissima esperienza partecipando a un festival esclusivamente come appassionato di musica e come curioso. Ho partecipato a Calcatronica, festival dedicato alla musica elettronica che si tiene a Calcata, borgo molto carino proprio al confine fra la provincia di Roma e quella viterbese, quindi già Tuscia Viterbese. Festival diretto da un bravissimo musicista batterista newyorkese ma residente in Italia da anni, che è John B. Arnold, tra l'altro nipote del meraviglioso compositore Augie Carmichael, quello che ha scritto Stardust e George on My Mind. Per dire, John B. Arnold, appassionato di elettronica, ormai da qualche stagione organizza Calcatronica, festival dedicato alla musica elettronica. Ecco, per me la musica si può chiamare musica se ci sono 3 elementi importanti, 3 ingredienti, come per un grande piatto, cioè basilico, pomodoro e mozzarella, fai una bella caprese. Per fare musica ci vuole ritmo, armonia e melodia. A Calcatronica è definita musica anche un'espressione sonora che non prevede la presenza di questi 3 elementi in parte o tutti assieme. E questa cosa ti ha un po' scioccato? Mi ha un po' scioccato, però mi sono molto divertito perché da musicista curioso mi ha portato poi a scoprire tante altre cose. Ed è quello che dobbiamo fare noi musicisti. Fatto sta che la puntata di oggi in parte la dedichiamo all'elettronica, partendo da una band che dell'elettronica ha fatto il suo manifesto, ma che si fa conoscere in tutto il mondo partendo dalla madre patria, ovvero loro sono svedesi, quindi la band, l'abbiamo capito, sono i Little Dragon, con una composizione che invece è una composizione acustica che è stata recuperata poi da tante altre band. Sì, loro, i Little Dragon, composto da 4 membri, il nome proprio Little Dragon viene dal nickname di Yukimi Nagano, che ha palesi origini giapponesi. Infatti lei conosce gli altri membri della band quando erano a scuola, era 2 anni più piccola degli altri membri, quando cantavano nello studio di registrazione lei accendeva un sacco di candele, quindi da lì si formavano queste nuvole che sembravano dei piccoli dragoni, e da lì il nome Little Dragon. Quindi non ha un draghetto scritto sul linguine come... No, assolutamente no. Un tatuaggio, niente. No. Niente. Loro tra l'altro diventano famosi in realtà abbastanza per caso, nel senso che la moglie di Damon Albarn, il leader dei Gorillaz, disse proprio a suo marito: guarda, devi assolutamente contattare questa band perché sono bravissimi, voglio che sia nel tuo nuovo album, questo nel 2010. Hai capito, la moglie del Gorillaz? Sì. Damon Albarn si fida di sua moglie, certo. Conosce i Little Dragon e da lì parte la loro carriera in maniera lanciata in tutto il mondo. Eh sì, noterete che i loro video hanno milioni di visualizzazioni. Il brano, lasciatemelo dire, un capolavoro, minimal ma molto efficace, bellissima melodia, la voce Yukimi Nagano, Little Dragon, il brano è splendido, si intitola Twice. Twice I turn my back on you. Dalla Svezia con furore Little Dragon, sì, giocando anche sulle origini di Yukimi Nagano che è giapponese, Little Dragon dalla Svezia hanno poi però raggiunto tutto il mondo discograficamente e hanno anche ispirato nuove band e nuovi artisti con questo suono a cavallo fra il classico strumentale ma anche l'elettronico e il contemporaneo. Da Little Dragon quindi passiamo al sound dei californiani The Internet con la voce di Syd Bennett, ovvero Syd the Kid. Esatto, lei è Sydney Bennett, giovanissima, l'abbiamo presentata tantissime volte ed è davvero una producer assolutamente contemporanea. Infatti qui incontra un altro artista bravissimo che è Caetranada, che ha origini haitiane. Quindi cioè, mi piace questa cosa che ci sia sempre del mix e che assolutamente con dei ritmi che anche vengono da paesi caraibici, quindi il dub, il reggae, che nell'elettronica sono anche molto sfruttati. Soundcheck. Il suono della musica. Molto seguito anche il dottor Bonobo, è bello dottor Bonobo, sì, perché alla fine è un bravo musicista, un bravo bassista elettrico, ma anche uno sperimentatore di suoni, quindi un ingegnere del suono. Ecco, dottor ingegnere del suono Bonobo qui al soundcheck di Radio 24 con la voce di un artista, posso dire alternativa? Sì, abbastanza alternativa. Abbastanza alternativa, ma anche una ragazza carina, Andrea Triana, molto famosa nel circuito proprio underground lì in Inghilterra, sonorità elettroniche, dub e tutto quello che fa suono contemporaneo. Questo è il Soundcheck Radio 24, la puntata di oggi è vagamente elettronica ma non troppo, perché poi a me piace quando l'elettronica viene utilizzata dai musicisti, quindi mi piace questa combinazione fra il suono elettronico ma anche quello caldo, è vero, degli strumenti e l'intelligenza umana nel creare musica. Sì, anche io mi posso associare a questa. Grazie, passione. Sei molto carino. Molto carino, sì, perché grazie. Mi fa impazzire quando soprattutto si contaminano gli strumenti analogici veri e propri, quindi come un contrabbasso con le sonorità elettroniche pure. In quel caso secondo me si crea un mix veramente magico e sembra una cosa assolutamente contemporanea, anche un po' futuristica. Sì, e poi io ricordo gli esperimenti, i primi esperimenti fatti da un campione di musica e un campione di jazz come Herbie Hancock, e adesso ultimamente avrete notato anche Robert Glasper nell'ultimo disco si lascia molto andare non solo al suono degli strumenti vintage come Rhodes, Fender e Wurlitzer, ma utilizza moltissimo l'elettronica con mini Moog, tappetoni sonori, e poi c'è sempre la mano di qualche disc jockey che hanno fatto tantissimo, cioè da quando esistono i software anche i disc jockey possono non solo suonare la musica prodotta da altri ma suonare le loro elaborazioni, a volte fatte anche dal vivo. Certamente in alcuni momenti ci sono degli esperimenti che non riescono molto bene, perché se non hanno un orecchio abituato alle tensioni armoniche i DJ fanno delle grandissime, dei grandissimi danni. Però fatto sta che hanno il merito anche insieme ai musicisti, quindi collaborazioni importanti, di aver aperto dei nuovi sentieri. Sì, e possiamo dire anche che l'Europa in questo è molto più forte rispetto al resto del mondo, nel senso che quasi tutti i DJ più forti, i campioni dell'elettronica vera e propria, sono comunque europei o hanno origini europee. Hanno origini europee, come i Gogo Penguin, un trio di bravi musicisti, jazzy, non proprio jazz, quindi batteria, contrabbasso e pianoforte, che però spesso si lasciano andare all'elettronica. Guarda, raccontano in alcune interviste che alcuni dei loro brani nascono elettronici, ovvero da un beat che elaborano al computer con dei programmi particolari, e poi quando vanno in studio risuonano nella versione più acustica. E questa è la versione remix di All Rest che troverete nell'ultimo album dei Gogo Penguin. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E lo abbiamo detto, ci piace l'elettronica, ci piace tanto, ma quando viene elaborata da musicisti. E qui l'accoppiata è vincente, perché si incontrano Taylor McFerrin, figlio d'arte, figlio di Bobby McFerrin, e un'altra signorina che a noi piace tanto, che è Emily King, che sta spopolando negli Stati Uniti. Sì, è fortissima, c'ha la vocalità, secondo me, tra quelle della sua generazione, una delle più interessanti in assoluto. Ma è anche una bravissima compositrice, chitarrista, molto amata anche dalle nuove generazioni. Emily King e Taylor McFerrin si incontrano proprio nell'ultimo album pubblicato da Taylor McFerrin, in questa composizione intitolata Decisions. E da Taylor McFerrin passiamo, per chiudere questo appuntamento del soundcheck, a sua sorella, che mi piace così tanto, Madison, ma già con questo nome. Hi Madison, how are you doing? Eh sì, anche se andate a scovare qualche foto, è interessante anche dal punto di vista proprio... Ma interessa, tu pensa a conoscere Madison McFerrin, che è una ragazza carina, canta, diplomata alla Berklee College of Music e figlia di Bobby McFerrin. Come la mettiamo? Hai vinto, diciamo. Hai vinto. Se sei un musicista pure tu, hai vinto. Tutto. Bene, allora che cosa fa Madison McFerrin, bravissima cantante e musicista, con chi si accoppia? Con, musicalmente parlando, Jared Barnes, meglio noto anche come Architect. Architect. Sì, in due si chiamano Binary Soul, loro hanno cambiato poi nome, il loro progetto è proprio quello dei Binary Soul, e l'EP che hanno prodotto si chiama Dark Matter. Allora, Dark Matter, il titolo del progetto di Madison McFerrin con l'architetto dei suoni, il brano con il quale chiudiamo questo appuntamento del soundcheck si intitola The Chase, e noi vi ricordiamo che torniamo qui su Radio 24 sabato prossimo a partire dalle 19:15, ma in TV su Rai 5 con variazioni su tema mercoledì alle 21:15, e non perdetevi la puntata, perché ci sarà forse, non lo so, ma forse il ritorno di Super Tromba. Beh, lasciamo il mistero, dai. Lasciamo il mistero. Tornerò o no, non si sa. Non si sa. Can't help myself, 'cause I don't wanna know, so I Soundcheck, il suono della musica.